Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Troppa gente per una sezione, troppa gente per la base, per farsi la doccia, troppa gente per fare i corsi, troppa gente dentro il carcere. Cioè, siamo sei. Dimentichiamoci che se stiamo qua, la colpa è soprattutto nostra. Rispetto per le vittime, siamo persone. È giusto pagare una volta sola. In queste condizioni noi non paghiamo una volta sola. Noi la nostra pena la ascoltiamo due, tre volte, le nostre famiglie lo stesso. Vergogna e assassini, grida la folla a Lampedusa all'arrivo di Barroso e Letta. Il presidente del Consiglio dice: ci scusiamo. L'agenzia di controllo delle frontiere europee Frontex dice che le risorse sono esaurite. Dopo il messaggio di Napolitano alle Camere si riapre il dibattito sulla situazione carceraria ed è relativo a questo l'audio che vi abbiamo fatto ascoltare in apertura. Scontro tra il capo dello Stato e il Movimento 5 Stelle che presenta le sue proposte alternative ad amnistia e indulto. Oggi l'esecutivo varerà la correzione di bilancio, 330 milioni per rifinanziare la cassa integrazione, 190 per gestire l'afflusso di immigrati. Chiedo perdono a nome dello Stato, il presidente del Senato Grasso al cinquantenario della tragedia del Vajont, era una strage che si poteva evitare, prevalse la logica degli affari. Presunte tangenti per la fornitura di 45 bus a Roma metropolitane, indagati Alemanno, Guarguaglini e altre 18 persone. Nobel per la chimica, tre ricercatori, grazie a loro si è capita la dinamica delle reazioni chimiche, amplissimi campi di applicazione dalla medicina all'energia. Una buona giornata dunque da Simone Spezia. L'audio che vi abbiamo fatto sentire è tratto da un documentario web realizzato dall'associazione Antigone insieme a Next ed è un documentario che vi consigliamo, lo trovate sul sito www.insidecarceri.it. Torneremo a parlare di amnistia e indulto e anche della situazione carceraria col sottosegretario alla giustizia e con un esponente del Movimento 5 Stelle più avanti nel corso della trasmissione dopo il messaggio di ieri del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alle Camere. Ma in apertura andiamo a Lampedusa. Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Con queste grida sono stati accolti questa mattina il presidente del Consiglio Letta, il vicepremier Alfano, il presidente della Commissione Europea Barroso in visita sull'isola, una visita con la quale Bruxelles cerca di rendersi conto direttamente della situazione. Si ipotizzano interventi, ma a quanto pare le risorse non ci sono. Raffaella Calandra, è così? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono arrivati sull'isola, sono stati fermi davanti alle quasi 300 bare allineate nell'hangar. Sono stati poi testimoni del recupero di altri 7 corpi sul molo Favarolo e quindi anche delle condizioni in cui vivono i sopravvissuti di questo naufragio come degli altri sbarchi. E ora che, come ricordavi, che hanno visto personalmente il dramma di uno dei peggiori naufragi degli ultimi tempi, ma non il primo, ricordiamolo, ora i vertici della Commissione Europea assicurano che Bruxelles non può girarsi dall'altra parte. Non dimenticherò mai l'immagine di quelle bare, ha ammesso poco fa, parlando in italiano, José Manuel Barroso, che ha annunciato misure per accelerare gli interventi e 30 milioni in più per l'Italia, dopo che Frontex aveva fatto sapere che i finanziamenti erano già finiti. Ma Lampedusa che sente di portare su di sé il dolore e l'indifferenza del mondo, come recita uno degli striscioni che sventola da giorni sull'isola, sintesi dello stato d'animo di quanti hanno contestato la delegazione. Come abbiamo sentito, Lampedusa chiede risposte concrete, non più parole. Lo avverte il premier Enrico Letta, che si è inginocchiato davanti a quella distesa infinita di bare, sono già 298 e non sono tutti, e che a tutti, ai morti in mare e alla gente di quest'isola, ora chiede scusa. Sarà funerale di Stato quello che riguarda le vittime di quello che è avvenuto e le parole che abbiamo detto a tutti coloro che abbiamo incontrato in questi giorni sono anche le parole di scuse per le inadempienze del nostro paese rispetto a tragedia come questa e alle tragedie che complessivamente queste vicende comportano e hanno comportato. Già nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno definiti interventi sui rifugiati come per i minori, visto che, come abbiamo anche già denunciato a Radio 24, da dicembre 2012 le comunità che accolgono i bimbi stranieri sono senza soldi. Ma per il Premier Letta il 2014 deve essere l'anno della svolta e già nel prossimo Consiglio europeo, il 24 e il 25 ottobre, la questione è stata introdotta in agenda. 300 morti in mare stanno forse svegliando anche Bruxelles, visto che, per dirla con le parole della commissaria Malmström, ma quel dolore davanti alle bare non è degno dell'Unione Europea. Simone. Grazie a Raffaella Calandra. Noi siamo adesso alla politica italiana che si divide anche sulle parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ieri nel suo primo messaggio alle Camere destinato alla situazione carceraria, che si occupa della situazione carceraria, vi stiamo tra l'altro chiedendo sulla pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno appunto se secondo voi amnistia e indulto sono provvedimenti necessari data la situazione. Si divide tra questo, la politica italiana e naturalmente la situazione economica. Oggi è convocato un Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare la manovra di correzione di bilancio. Vincenzo Miglietta, pare che ci becchiamo un altro aumento per gli acconti IRPEF e IRAP, è così? Sì, è così, te lo confermo. Un intervento sui conti pubblici, Simone, che mira a riportare sotto controllo il rapporto deficit-PIL, ossia entro la soglia del 3%, e allora la cosiddetta manovrina che arriva questa sera sul tavolo del governo fa ricorso ai classici interventi di emergenza per reperire risorse, maxi aumento immediato delle accise sui carburanti. Dalla data di entrata in vigore del decreto la benzina salirà infatti di 6,5 centesimi al litro, ma non basta. L'aumento dal 1 gennaio 2014 fino al 31 gennaio 2015 sarà di 3,3 euro al litro. Nuovo aumento quindi per gli acconti IRPEF ed IRAP. Per entrambe le imposte questi passano dal 101 al 103% per il solo 2013. A tutto ciò si aggiungono tagli ai ministeri. Risorse queste che permetteranno, secondo le intenzioni di Palazzo Chigi, di destinare 330 milioni di euro per il rifinanziamento per quest'anno della cassa integrazione in deroga. Vi sono inoltre 35 milioni di euro per la cosiddetta social card e 190 milioni di euro per il fondo immigrazione. Si allenta infine il patto di stabilità interno, il comitato privatizzazioni diventa permanente, si prevedono indennizi per le imprese danneggiate nei cantieri della TAV. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, noi passiamo alla cronaca. Un duro colpo a Cosa Nostra inferto oggi dalla DIA di Trapani, che ha sequestrato beni per un ammontare di 35 milioni di euro a Matteo Messina Denaro. Sentiamo. Matteo Messina Denaro, detto Diabolic, è il capo di Cosa Nostra, uno degli uomini più potenti del mondo, con un peso di omicidi sconfinato sulle spalle. Inizia a uccidere a 14 anni. È l'uomo che ha imbrattato un paese intero con la droga, latitante da 20 anni, ha percorso, come altri criminali, la strada dell'eolico, comperando terreni agli agricoltori per farci cimiteri di pale. Mentre gli danno la caccia, gli uomini dei ROS cercano anche di erodere il suo capitale, soldi che gli permettono una latitanza d'oro, dice il tenente colonnello Fabio Bottino, che ha provveduto al sequestro di beni per 38 milioni di euro. Il sequestro che abbiamo eseguito oggi risponde a questa strategia, quello cioè di privare le basi economiche e finanziarie che vengono utilizzate per sostenere questa latitanza. Gli affari di Messina vanno da nord a sud e non si fermano di certo alla frontiera. L'unica soddisfazione, dice il colonnello Bottino, è sapere che quello di oggi è un colpo duro a Cosa Nostra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo a Longarone e iniziamo dalle parole del Presidente del Senato, Pietro Grasso, a 50 anni dalla tragedia del Vajont. Non si possono oggi sottacere le pesanti responsabilità umane che hanno determinato la catastrofe, né da uomo dello Stato posso ignorare le manchevolezze delle istituzioni dell'epoca. Così Pietro Grasso, Dario Ceccarelli, buongiorno, una cerimonia toccante. Sì, buongiorno Simone, sì, davvero toccante perché insomma è ancora lì nell'aria, quella ferita ancora aperta. Oggi sono 50 anni dal Vajont, la madre possiamo dire di tutte le catastrofi italiane, perché quei 2000 morti di Longarone e di altri paesi si potevano evitare, lo ha detto anche Grasso, bastava ascoltare gli allarmi dei geologi e di una giornalista che si chiamava Tina Merlin, che diceva che quella montagna di nome Toc, che in dialetto vuol dire che va giù a tocca, a pezzi, stava franando. Fernando e che una diga, quella della Sade, non si doveva costruire. E un altro tema, scusate, è stato trattato oggi, è quello della prevenzione, perché se a Lungarone la ferita è ancora aperta, è tornata alla vita, ci sono molte aziende, in Italia comunque rimane il problema della prevenzione. Sentiamo il presidente della regione Zaia. Insegnamenti per il futuro. Tina Merlin diceva che non è sufficiente piangere, diceva che da questa tragedia dovremmo trarre molti insegnamenti. Io penso che a noi serva oggi ricordare che i danni da catastrofi in Italia ammontano a circa 1 miliardo di euro all'anno. È bene ricordare che ancora oggi in Italia i danni da terremoti ammontano a 2,5 miliardi all'anno. Insomma, siamo il paese dell'eterna emergenza, quando ne usciremo forse l'Italia avrà un futuro meno precario. Grazie Dario Ceccarelli. Noi adesso passiamo ad una cosa sulla quale si torna a discutere ogni tanto, ritornano questi temi in Italia: far pagare le multe per le infrazioni stradali in base al reddito, in particolare quelle per eccesso di velocità, come accade già in Finlandia ma accade anche in altri paesi, per esempio in Svizzera. Il governo sta valutando una proposta di legge che vada in questa direzione per fronteggiare il rischio evasori. Un altro parametro che si terrà in considerazione è quello della cilindrata dell'auto. Al microfono di Katia Caramelli, il sottosegretario ai trasporti Erasmo De Angelis. Siamo il paese più indisciplinato d'Europa. Abbiamo, diciamo, ogni anno quasi 80 milioni di multe per 2,8 miliardi di euro. Dobbiamo assolutamente, diciamo, continuare con l'opera di prevenzione e di sicurezza, sapendo che si muore e, insomma, gli incidenti avvengono soprattutto per eccesso di velocità, soprattutto per distrazioni alla guida, passaggi agli incroci anche col semaforo rosso, insomma per tante infrazioni. E la deterrenza si ottiene anche sulla base di sanzioni che possono agire per la deterrenza. Ora è evidente che, diciamo, le sanzioni per eccesso di velocità, che sono appunto tra le cause principali, forse la causa principale degli incidenti, diciamo, se sono uguali per tutti i cittadini, non hanno lo stesso potere di deterrenza. Per i contribuenti che hanno redditi molto elevati, con auto molto sopra la media, una multa pesante risulta poi di fatto molto leggera. Quindi modulare la sanzione in base al livello del reddito e alla cilindrata dell'auto, secondo me, è giusto. In chiusura di questa prima parte ci occupiamo di un'inchiesta della quale si è avuta notizia stamattina, un'indagine che riguarda l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l'ex capo di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini. Monica Ceravolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Si parla di tangenti, di cosa si parla? Si parla di tangenti, motivo per il quale già la Procura di Roma ha indagato diverse persone e adesso questa inchiesta, una tranche di questa inchiesta, coinvolge, come avete giustamente anticipato, anche l'ex sindaco Gianni Alemanno. Il reato ipotizzato nei suoi confronti è concorso in finanziamento illecito e riguarda la vicenda delle tangenti pagate per la fornitura di 45 filobus acquistati e tra l'altro mai utilizzati dal Comune di Roma, vicenda che qualche mese fa aveva portato in carcere uno dei bracci destri di Alemanno, Riccardo Mancini, considerato, diciamo, l'uomo ombra per quanto riguarda i trasporti pubblici. Tra le persone che sono coinvolte in questa inchiesta, alle quali è stata notificata una proroga delle indagini, ci sono, come avete anche anticipato, il presidente, l'ex presidente di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini, Riccardo Mancini e poi il commercialista Franco Iannilli. Nei loro confronti, a vario titolo, i reati ipotizzati sono estorsione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione e favoreggiamento, fino al finanziamento illecito che riguarda, come abbiamo detto, l'ex sindaco Alemanno. Grazie Monica Ceravolo per questi aggiornamenti. Noi adesso ci fermiamo per la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo, torneremo a parlare di amnistia, di indulto e della situazione delle carceri italiane. Vi stiamo chiedendo che cosa ne pensate sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, potete anche scrivere a me su Twitter se volete Simone Spezia. Ospiteremo il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri e una deputata del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Giustizia Movimento 5 Stelle che ha appena annunciato che porterà le sue proposte sulle carceri a Napolitano. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Vergogna e assassini, grida la folla a Lampedusa all'arrivo di Barroso e Letta. Il presidente del Consiglio dice ci scusiamo e annuncia che si discuterà del reato di clandestinità e della Bossi Fini nel governo. L'agenzia di controllo Frontex, l'agenzia europea, dice che le risorse sono esaurite. Dopo il messaggio di Napolitano alle Camere si riapre il dibattito sulla situazione carceraria. C'è stato uno scontro tra il capo dello Stato e il Movimento 5 Stelle che oggi ha presentato le sue proposte e ha fatto sapere che le porterà al Presidente della Repubblica. Ne parleremo tra un attimo. Oggi l'esecutivo varerà la correzione di bilancio, 330 milioni per rifinanziare la cassa integrazione, 190 per gestire l'afflusso di immigrati. Si apprende, secondo indiscrezioni, che si aumenteranno gli acconti IRPEF e IRAP dal 101 al 103% per il solo anno d'imposta 2013, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Franceschini dice non ci saranno aumenti di tasse o accise. Mi scuso a nome dello Stato, dice il presidente del Senato Grasso al cinquantenario della tragedia del Vajont. Era una strage che si poteva evitare, prevalse la logica degli affari. Nobel per la chimica va a tre ricercatori grazie ai quali si è capita la dinamica delle reazioni chimiche, amplissimi campi di applicazione dalla medicina all'energia. Parleremo anche di questo più avanti. Veniamo a questo punto a parlare di amnistia, di indulto e di situazione carceraria. Saluto il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato, saluto tutti, anche coloro che ci ascoltano. Allora, io le devo chiedere, allora poi verremo sull'amnistia perché so che lei ha una posizione un po' dissonante, da dire che il sottosegretario Ferri è un sottosegretario puramente tecnico, però prima le devo chiedere questo, dato che la palla, se vogliamo, ce l'ha lanciata lo stesso presidente del Consiglio Letta in visita a Lampedusa e dice dobbiamo ragionare sul reato di clandestinità. Naturalmente se ne parla dopo che i sopravvissuti al naufragio di Lampedusa sono stati indagati per il reato di immigrazione clandestina, ma questo reato di immigrazione clandestina ha anche un forte impatto sulla situazione carceraria, sottosegretario, è così? Sì. Devo dire che bisogna distinguere, perché ci sono alcune ipotesi di reato previste dalla Bossi-Fini che sono punite solo con la pena pecuniaria, che tra l'altro su queste veramente bisognerebbe procedere con una seria depenalizzazione, perché poi quando si parla di Bossi-Fini dobbiamo andare a vedere le singole ipotesi di reato, ve ne sono alcune che sono punite con la pena pecuniaria, quindi di fatto non incidono sul sovraffollamento. Altre sono state già dichiarate non applicabili dalla Corte di Giustizia e quindi secondo me una seria riflessione sulla Bossi Fini è giusta anche per renderle attuali e uniformarle a questi rilievi che ci sono stati fatti. Il reato di immigrazione clandestina andrebbe il reato di immigrazione clandestina andrebbe abolito a suo giudizio? Ma secondo me è un reato che va in qualche modo rivisto, perché così non avrà. Quindi io sono per un'apertura sulla Bossi Fini e certamente una riflessione va fatta, quindi io punterei sulle espulsioni, quindi io cercherei di rendere efficaci, cioè di punire coloro che commettono i reati, e quindi lavoriamo e investiamo sulle espulsioni di chi commette reati, ma l'accoglienza è un'altra cosa e quindi cerchiamo invece, siccome noi siamo un paese civile, un paese aperto, di puntare sull'accoglienza, quindi io farei la prevenzione e il sistema penale per chi commette reati, che è giusto che non stia nel nostro territorio e che comunque anzi sconti la pena anche nel paese di origine, ma per quanto riguarda l'accoglienza bisogna rivedere, e quindi questi reati secondo me vanno in qualche modo rimodulati e rivisti, ecco. Allora, sottosegretario, voglio sentire, e intanto saluto Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle, segretario della Commissione Giustizia, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, tra poco parleremo delle vostre proposte che volete portare al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, però voglio sentire prima dal Sottosegretario Ferri la sua posizione sull'amnistia, sull'ipotesi di amnistia. Allora, io, come lei ha detto, ho un approccio chiaramente anche da magistrato, perché quando un magistrato parli di amnistia e indulto si preoccupa un po', perché vede vanificare tutto il proprio lavoro e quindi ha un approccio un po' diverso, perché gli sembra comunque una rinuncia a perseguire dei reati. Però devo anche prendere atto, e questo lo dice e lo devo dire non solo da cittadino ma anche da magistrato, da uomo di governo, che la situazione è insostenibile. Quello che mi chiedo è come mai fino ad oggi non è stato fatto niente per risolvere il problema, o poco per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. E quindi anche tutti, io dico tutti, mi ci metto anch'io, forse anche se dalla magistratura lanciavamo appelli e lanciavamo un richiamo alla politica di fare qualcosa, però le istituzioni non hanno fatto molto per risolvere il problema. Ad oggi il problema c'è, è grave, perché io sto girando le carceri e c'è una situazione insostenibile, non ci sono delle norme oggi per risolvere, perché addirittura non dimentichiamoci che il 31 dicembre scade anche la norma cosiddetta Severino, quella che allargava a 18 mesi l'ipotesi di scontare la detenzione domiciliare e quindi di scontare la pena presso il domicilio, e quindi ad oggi non c'è uno strumento normativo che risolva il problema. Abbiamo una scadenza che ci detta l'Europa, che è quella di maggio 2014, e non dimentichiamoci che dovremo pagare milioni, milioni, milioni di euro, perché ora inizieranno le condanne che l'Europa farà all'Italia, e quindi questi soldi li dovranno versare i cittadini italiani. E allora è assurdo. Allora io a questo punto devo capire qual è il male minore, perché il male minore dice forse l'amnistia a questo punto. Brevemente, dico, se si fanno anche dei provvedimenti clemenziali, vanno accompagnati a delle serie di riforme strutturali, perché non dimentichiamoci che quando è stato fatto nel 2006 l'indulto sono usciti 24.000 persone e abbiamo raggiunto il risultato immediatamente. Oggi siamo nel 2013 e c'è di nuovo un sovraffollamento, ne abbiamo recuperati 35.000. Allora appunto, io dico, va bene l'amnistia e l'indulto se ci vogliamo arrivare, e va benissimo, perché preferisco a questo punto amnistia e indulto piuttosto che far pagare ai cittadini di tasca loro le condanne che l'Europa... Però lei dice si accompagni il tutto a dei provvedimenti strutturali. Francesca Businarolo, lo ripeto, deputato del Movimento 5 Stelle, le chiedo di elencarci brevemente, non voglio entrare sul tema della polemica con Napolitano, francamente. Voglio invece sentire che cosa avete da dire voi, perché dite abbiamo un piano, l'abbiamo presentato già in estate, lo stiamo ripresentando, adesso lo portiamo a Napolitano. Se ci può elencare brevemente in pochi punti in cosa consiste questo piano, cosa tiene dentro? Allora, premetto che non è la panacea di tutti i mali, ma deve coniugarsi agli interventi strutturali di cui ha fatto cenno adesso il dottor Ferri, che tra l'altro conosco molto bene. Interventi che vanno ovviamente nel segno dettato dalla Presidente della Repubblica, con tutti quanti i provvedimenti legislativi necessari, dalla messa alla prova, la probation, quello che è stato il decreto della Cancelliera, che però non ha prodotto grossi effetti. Noi proponiamo un piano che prevede sostanzialmente, nel giro di poco tempo, di recuperare 22.000 nuovi posti detenuto per un importo nettamente inferiore rispetto a quello che era il piano dello svuota carcere. In che modo, Businarolo? Ristrutturando e riqualificando le strutture esistenti. Le faccio un esempio molto semplice: a Milano, a San Vittore, ci sono due razzi, il quarto e il sesto, che non sono usati. Sono anni che aspettano di essere ristrutturati, ma non vengono ristrutturati. Ci sono razzi sovraffollati dove le persone restano, fanno il turno per stare in piedi, mentre ci sono due razzi che possono essere ristrutturati. Partiamo da lì. Partiamo da queste cose. La fermo, Businarolo, perché insomma mi sembra che la cosa sia chiara, e voglio solo chiedere in 30 secondi un commento al sottosegretario Ferri. C'è del buono in questo o no? Sì, c'è del buono, e l'ha detto però lo stesso presidente Napolitano, quindi è un peccato che si poi finisca tutto nella polemica, perché indica anche lui delle innovazioni di carattere strutturali che vanno fatte. Ha ragione, che saluto anch'io l'amica Businarolo, perché ha ragione, occorre. Io ho vissuto l'esperienza del carcere di Massa, dove sono stato, ma le pare possibile, che ho visitato e ho visto con i miei occhi, ci sono 80 posti letto, 3 piani costruiti, preparati, nuovi, tutto nuovo, fermi dal 2010. Ho subito scritto al ministro e al capo del DAP, ho detto: ma com'è possibile che dal 2010 abbiamo 80 posti letto e nessuno li utilizzi? Perché manca il collaudo, manca questo, manca... Ma io ho detto, veramente, io sono andato, mi sembrava quasi tutto pronto e tutto costruito. Ci saranno delle cose da fare, ora gentilmente il ministro se ne sta occupando personalmente, sta risolvendo il problema, però dico, se queste situazioni ci sono, come ha indicato prima l'amica Businarolo su Milano, vanno risolte e si aumenta sicuramente il numero dei posti disponibili. E poi non dimentichiamoci che è un disagio non solo per i detenuti, ma anche per tutti i lavoratori che sono all'interno delle carceri. Sottosegretario, la interrompo perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. La ringrazio Francesca Businarolo e le chiedo scusa se l'ho fatta parlare poco, ma magari avremo occasione di tornarci su questi temi e ci risentiremo, perché qualcuno ci scrive che non sono i problemi del paese fondamentali. Guardate, insomma, c'è chi ritiene evidentemente che le questioni di diritti umani non siano, che i detenuti non siano meritevoli di godere, insomma, come dire, dei diritti umani, però è così, e dato che la condizione nella quale sono è quella, è una questione e un problema che va affrontato. Guardate, dal punto di vista pratico, non fosse altro che per quello che ci diceva Ferri, cioè che rischiamo le multe dell'Unione Europea, cioè se proprio non vogliamo stare nell'ambito dei diritti, stiamo nell'ambito del quattrino. Continuiamo a discuterne sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Se avrò il tempo dopo leggerò qualcosina. Ci ritroviamo tra un attimo e parliamo del Nobel per la chimica. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il Presidente del Consiglio Letta a Lampedusa parla della possibilità di depenalizzare il reato di clandestinità, dice che si discuterà di questo e definisce una vergogna il fatto che siano indagati i sopravvissuti al naufragio. Intanto la folla contesta lui e Barroso, l'agenzia di controllo delle frontiere europee Frontex dice che le risorse sono esaurite. Dibattito aperto sulla situazione carceraria, su amnistia e indulto dopo il messaggio di Napolitano, scontro tra il capo dello Stato e il Movimento 5 Stelle, che però oggi promette che presenterà le sue proposte alternative al capo dello Stato. Oggi l'esecutivo varerà la correzione di bilancio, 330 milioni per rifinanziare la cassa integrazione, 190 per gestire l'afflusso di immigrati, e pare che si parli di un nuovo aumento per gli acconti IRPEF e IRAP dal 101 al 103%. Parliamo adesso però di Nobel per la chimica. Il Nobel per la chimica è arrivato a 3 ricercatori. Grazie a loro si è capita la dinamica delle reazioni chimiche, roba che ho scritto quasi sotto dettatura. Maurizio Melis, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno, spiega a un cretino come me che cosa vuol dire questa cosa. Allora, diciamo così, l'immagine tipica che abbiamo in mente della chimica è un signore con due provette che le mescola e ottiene qualcosa, no? D'accordo. In realtà quello che questo è abbastanza chiaro, noi sappiamo abbastanza bene da tempo che cosa mescoliamo, che forma hanno, diciamo così, le molecole che mescoliamo e che forma hanno, come si dispongono gli atomi nelle molecole del risultato della reazione. Ma non sapevamo, o non eravamo in grado di rappresentare che cosa succedeva nel mezzo. Cioè, avevamo una visione statica dei reagenti e dei prodotti della reazione, ma non eravamo in grado di cogliere la dinamica, che cosa succedeva in mezzo. Gli elettroni si muovono a velocità prossime a quelle della luce, tutta questa reazione avviene a velocità altissima e non eravamo in grado di fotografarla. Invece questi signori sono riusciti a guardare come dei guardoni l'accoppiamento tra le sostanze chimiche. Sono riusciti a simulare al computer il comportamento di queste sostanze chimiche nella loro dinamica. Questo è quello che accade. Dal punto di vista applicativo, quali sono i campi di applicazione? Facci qualche esempio che così cerchiamo di capire. Si farebbe prima dire quali non sono i campi di applicazione, ma diciamo, facciamo due esempi. Per esempio, la clorofilla, sapete tutti che è la molecolina che trasforma in zucchero l'ossigeno, l'anidride carbonica e l'acqua che raccolgono le piante, le trasforma in zuccheri. Bene, questa molecola fa un lavoro simile a quello che fanno i pannelli fotovoltaici. Noi sapevamo come era fatta questa molecola, ma non avevamo idea di come riuscisse a svolgere il suo compito. È stato possibile scoprirlo simulandolo al computer. Faccio un altro esempio. In farmacologia, per esempio, è importantissimo che il farmaco interagisca con, in moltissimi casi, con le proteine che si trovano sulla superficie delle cellule. Queste si ripiegano. Si cambiano forma, per esempio prendono una roba che si trova fuori dalla cellula e la portano dentro la cellula. Tutto questo muoversi, tutto questo cambiamento di forma, noi non sapevamo come avveniva. Adesso lo sappiamo. Questo vuol dire che anziché mettersi in laboratorio e continuare a mescolare provette per tentativi, tutta una serie di progressi che si possono fare nella chimica li si possono prima vedere al computer, si possono fare delle simulazioni al computer che prevedono in modo molto preciso ormai, grazie a questi software che sono stati sviluppati a partire dagli anni 70, e riescono a prevedere esattamente che cosa succederà. Quindi insomma, e qua si possono fare altri esempi a decine, insomma, i catalizzatori, però, per esempio. Dimmi. Però no, però mi sembra Maurizio che abbiamo chiarito. Mi ho chiarito abbastanza bene di cosa si tratta. Io ti ringrazio per queste spiegazioni e torno ancora una volta adesso alle questioni di indulto e amnistia, perché ci sono state delle discussioni naturalmente da parte del Movimento 5 Stelle, il quale ha detto subito: si fanno amnistia e indulto per favorire Silvio Berlusconi. Abbiamo chiesto, e lo ha già fatto oggi sul Sole 24 Ore, andatevi a leggere il pezzo perché è molto preciso, abbiamo chiesto a Donatella Stasio, collega del Sole 24 Ore, di spiegarci esattamente come funziona la cosa, insomma, e che cosa ci si aspetta da questo punto di vista. Anzitutto una premessa: è difficile che l'amnistia possa incidere su reati come la concussione, la frode fiscale, la prostituzione minorile. Storicamente infatti l'amnistia riguarda reati minori. Per l'indulto, che è uno sconto sulla pena, il discorso è diverso. Stando al più recente precedente, quello del 2006, lo sconto si è applicato sia ai reati fiscali che a quelli contro la pubblica amministrazione, non anche alla prostituzione minorile. Infatti è stato applicato a Berlusconi nel processo Mediaset, 4 anni di condanna sono scesi a 1, e fu applicato all'epoca Cesare Previti per la corruzione giudiziaria. Pertanto, se le Camere approvassero un provvedimento fotocopia di quello di 7 anni fa, senza aggiungere e togliere nulla, lo sconto di 3 anni di pena si applicherebbe sia al processo Mediaset che a quello Ruby per concussione. Per il primo tutto dipende dai tempi. Il presidente Napolitano ha sollecitato l'approvazione rapida della clemenza perché sull'Italia pende la scadenza del 28 maggio 2014, quando scadrà il termine che la Corte di Strasburgo ci ha dato per metterci in regola sul sovraffollamento nelle carceri. La clemenza quindi dovrebbe arrivare entro 7 mesi, operazione difficile ma non impossibile se ci fosse un'ampia condivisione politica. Ebbene, 7 mesi sono anche il tempo medio impiegato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano per istruire le domande di affidamento in prova ai servizi sociali, come quella che Berlusconi si accinge a presentare nei prossimi giorni per scontare l'anno di pena che residua dalla condanna, già in parte indultata, del processo Mediaset. Se l'indulto arrivasse prima, Berlusconi eviterebbe i servizi sociali fin dall'inizio. Se arrivasse ad affidamento già iniziato, eviterebbe di dover proseguire. Quanto al processo Ruby, se la condanna a 7 anni per concussione e prostituzione minorile dovesse diventare definitiva, gli effetti dell'indulto verrebbero azzerati e quindi rivivrebbe integralmente la pena di 4 anni irrogata nel processo Mediaset, da cumulare a quel punto alla condanna nel processo Ruby, qualunque sarà l'entità, fermo restando lo sconto di 3 anni previsto dal nuovo indulto da applicare sulla somma delle 2 condanne, ma solo, attenzione, per la frode fiscale e la concussione, non anche per la prostituzione minorile, che però in primo grado è stata punita solo con 1 anno rispetto ai 7 della condanna complessiva. Ancora sulla situazione carceraria, mi scrivete su Twitter: 40 carceri inaugurate e mai usate, le famose carceri fantasma. Sì, avete ragione, c'è anche questa questione, bisogna vedere quanti posti letto hanno queste carceri. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Si discuterà della depenalizzazione del reato di clandestinità, dice il presidente del Consiglio Letta a Lampedusa. La folla contro Barroso e lo stesso Letta, vergogna e assassini, gridano. Si riapre il dibattito sulla situazione carceraria dopo il messaggio di Napolitano. Il Movimento 5 Stelle presenta le sue proposte alternative ad amnistia e indulto. Oggi l'esecutivo varerà la correzione di bilancio, si prevederebbe un aumento degli acconti sia per IRPEF che per IRAP dal 101 al 103%. Nobel per la chimica a 3 ricercatori che hanno capito, hanno aiutato a spiegare la dinamica delle reazioni chimiche. E adesso è il momento di America 24 con Mario Platero. Buongiorno Mario. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. In fact, the challenges facing our economy in the wake of the financial crisis have made clear communication more important than ever. Janet Yellen, forse non avete riconosciuto la voce, ma dovrete abituarvi a riconoscerla, perché almeno un tormentone è finito in America. Il presidente Barack Obama ha deciso il nuovo capo della Federal Reserve sarà appunto Janet Yellen. La Casa Bianca ci ha dato la notizia ieri pomeriggio, l'annuncio formale avverrà oggi alle 3 del pomeriggio ora di New York, vale a dire intorno alle 9 di sera ora italiana. Direi che con questa decisione Barack Obama finalmente mette fine a una delle più lunghe maratone per nominare il successore del presidente della Federal Reserve. Ben Bernanke si ritirerà in gennaio. E qualcuno si aspettava che forse questa nomina magari venisse anche prima. Ricorderete che c'era stato un grosso altalenare fra il nome della Yellen, che oggi è il numero 2 di Bernanke, e quello di Larry Summers, grande economista, ex segretario al Tesoro, ex capo del Consiglio per la sicurezza economica di Barack Obama, ha guidato l'America, è stata la vera mente che in qualche modo ha organizzato la politica fiscale per cercare di tirar fuori l'America dalla recessione dopo la crisi del 2007-2009. Barack Obama voleva scegliere proprio lui, perché la storia di questa presidenza è una storia che punta sempre sull'inner circle, cioè sugli amici, sulle persone di cui Obama si può fidare. I suoi incontri con la Yellen avevano prodotto scintille particolari, dopodiché c'è stata una ribellione quando si è saputo che Obama era orientato verso la scelta di Summers. Molti economisti, alcuni democratici al Senato si opponevano. Larry Summers ha fatto marcia indietro, ma questo già parecchie settimane fa, e dunque oggi la nomina, una nomina importante. La Yellen, 68 anni, sarà la prima donna a guidare la Federal Reserve, ma è anche la prima democratica a guidare la Federal Reserve, pensate, in quasi 30 anni. Fu nel 1987 che il leggendario Paul Volcker si ritirò per cedere il passo ad Alan Greenspan. La notizia importante legata alla nomina della Yellen e che rappresenta una continuità con la linea, diciamo, morbida di Ben Bernanke, una linea che è interventista, vuole favorire la crescita e dunque darà garanzie di continuità non soltanto per quello che è stato l'approccio sul QE3, ma diciamo che avrà un occhio molto attento a quelli che sono i problemi della crescita e dell'occupazione. And a decision to actually go through with it, to actually permit default, according to many CEOs and economists, would be, and I'm quoting here, insane, catastrophic, chaos. These are some of the more polite words. Warren Buffett likened default to a nuclear bomb, a weapon too horrible to use. Ma l'altro tormentone, quello dell'innalzamento del tetto sul debito e dell'approvazione del bilancio, continua. Avete sentito, Barack Obama ha usato molti aggettivi per spiegare cosa succederà se non si andrà avanti col rinnovo del tetto sul debito americano. Catastrofe, mercati nel caos, una caduta verticale dei valori, dei titoli, ha ricordato Warren Buffett, persino una esplosione nucleare finanziaria. In mezzo a questa retorica, Barack Obama ha però recuperato quello che da qualche giorno, vi ripeto, potrebbe essere il percorso per trovare un accordo. E ha detto cioè che accetterebbe anche un rinnovo a breve del tetto sul debito, mentre magari si sta negoziando su qualche cosa. Su questo hanno risposto i repubblicani. Boehner, pur tra mille parole di prudenza, ha fatto capire che anche lui potrebbe considerare questa ipotesi. Vi ripeto, in questo minuetto retorico, semantico, è difficile capire davvero quale sia la posizione precisa, perché poi ci sono mille rivoli nei quali poi si perde questo dibattito sul bilancio americano. E dunque aspettiamo a vedere cosa succederà. Intanto i mercati ieri hanno dato un segnale forte, c'è stata una caduta dell'indice Dow Jones superiore all'1%, come dire, insomma, qui ci stiamo spazientendo, vogliamo che facciate qualche cosa. In the US private demand is strong, so unless there are fiscal accidents, the recovery should continue. Japan is still doing well, and Europe, the good news is Europe seems to have started growth again. Olivier Blanchard, capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Ecco, in questa situazione, nuova guida alla Federal Reserve, situazione caotica sul fronte del bilancio americano, aiuti che non andranno all'Egitto, che è uno dei destinatari degli aiuti del fondo. Ecco, in questa situazione si sono aperti ieri i lavori del Fondo Monetario Internazionale. Alcuni dati sull'andamento dell'economia mondiale. Beh, è un'economia che sta rallentando leggermente rispetto al le previsioni, diciamo, dell'aprile scorso. Per il 2013 l'economia mondiale crescerà a un ritmo del 2,9%, al di sotto dello 0,3% di quello che si stimava prima, e del 3,6% l'anno prossimo. Beh, insomma, un dato interessante quello dell'anno prossimo, ma pur sempre lo 0,2% in meno rispetto a quello che si stimava precedentemente. Per l'Italia i dati formali, una contrazione per il 2013 dell'1,8%. Ve lo ricordo, sono stime, il 2013 ancora non è finito, ma lo spiraglio per la crescita dell'anno prossimo, lo 0,7%. L'anno prossimo, il primo segnale positivo per tutto l'anno, un barlume di speranza. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuate a seguirci su Twitter, su america24.com, mandatemi i vostri commenti, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, il 9 ottobre del 1940 nasceva chi? Beh, vi aiuto, a Liverpool, John Lennon. Oggi avrebbe 73 anni, mi sembra ieri, quando l'hanno ucciso qui a New York. Ricordiamolo con New York City di John Lennon. Grazie anche per oggi Mario Platero, i ringraziamenti finali, Filippo Oreggi in regia, Laura Fagini in redazione, tutta la redazione di Radio 24 naturalmente. Effetto Giorno torna domani alle 13, noi ci sentiamo tra un attimo con il giornale radio. Ricordati! Mancano 68 giorni al pagamento della seconda rata IMU.